Gaza ha aperto una frattura nella storia che studiamo, nelle parole che usiamo, nei futuri che immaginiamo. In Europa, tra i miei più traditi e i movimenti che resistono, qualcosa nel modo di fare storia è cambiato. Questo è Fare Storia ai tempi del genocidio a Gaza ed è un tentativo di tenere insieme metodo, dolore e impegno politico. C'è una domanda che faccio sempre ai miei studenti i primissimi giorni di scuola. Chiedo loro dov'è la storia nella loro vita, nel loro quotidiano, dove incontrano i segni del passato. Cerco con questa domanda di combattere lo stereotipo per cui la storia è qualcosa di vecchio e polveroso, che non ci riguarda. Prof, io farò il meccanico, non mi serve a niente la storia. Cerco di farli interrogare su come il passato lasci delle tracce e come quelle tracce possono aprirci dei mondi. Basta saperci parlare. Dopo un po' di opera di convincimento, qualcuno si lancia. Si fa l'elenco dei monumenti in centro. Qualcuno racconta del cellulare con i tasti del nonno. Qualcuno riporta vecchi modi di dire ancora in uso. E poi Said dice, genocidio, prof, è una parola del passato che adesso usiamo, no? Domande importanti, spesso evitate, per non dire cancellate dal dibattito pubblico, ma che esistono. Ne è consapevole la storica Anna Foa, che di queste domande ha parlato in un bel editoriale della Stampa in occasione del Giorno della Memoria di questo 2026, di cui vi prendiamo alcuni passaggi. Siamo al 27 gennaio, la giornata della memoria, una giornata nelle cui celebrazioni è oggi fortemente presente, ancor più che nei due anni precedenti, l'ombra dei 70.000 palestinesi uccisi a Gaza, della distruzione della striscia di Gaza, dei tanti bambini uccisi dalle bombe, dalla fame e dal freddo. E parlare oggi di Shoah, senza accettare di rispondere alle domande sull'oggi, quelle che negli incontri con le scuole tanti studenti, desiderosi soltanto di capire, ci pongono, sembra un'intollerabile viltà. Tanto più che altri fronti, altri luoghi di prevaricazione e di morte si sono aperti ed esigono anch'essi risposte. Se cerchiamo di comparare fra loro queste situazioni, gli elementi di somiglianza stretta sono scarsi. Nulla assomiglia ai campi nazisti, tranne la volontà di annientamento degli ebrei, come degli immigrati, come dei palestinesi. Ma c'è un altro elemento che accomuna questi orrori, l'attacco ai bambini. Vecchi orrori, nuove modalità di distruzione, che fare? Il passato può ancora insegnarci come resistere a queste orribili novità? O dobbiamo inventarci tutto da capo, memoria, storia, indignazione, resistenza? Le parole di Anna Foa descrivono bene un quadro che chi lavora a scuola o in progetti educativi conosce molto bene. Il giorno della memoria è uno degli appuntamenti in cui a scuola si aprono riflessioni sulla memoria e sul rispetto dei diritti umani. Negli ultimi due anni è diventato uno spazio in cui si è aperta una discussione su cosa possa significare lavorare su storia e memoria di fronte a ciò che sta succedendo a Gaza. La questione però è anche più vecchia. Ce lo spiega un blog curato da insegnanti del Centro Studi per la Scuola Pubblica di Bologna, che si chiama Quando suona la campanella. In questo blog hanno ripubblicato, per la giornata della memoria, un testo dal titolo I fantasmi dell'altro, un testo del 2003. A soli due anni dall'introduzione della giornata della memoria e già si avvertiva la necessità di partire dalla Shoah per allargare l'orizzonte al colonialismo, al razzismo e alle tante discriminazioni del XXI secolo. Nell'introduzione alla ripubblicazione, la redazione scrive: fin dai primi anni, l'attenzione delle istituzioni e delle associazioni che hanno deciso di celebrare la data si è concentrata sulla Shoah, cioè sulle principali vittime dell'universo dei campi di concentramento nazisti, perdendo però in questo modo l'occasione per gettare luce su un contesto più ampio, di ricostruire cioè la complessità della soluzione finale e il coinvolgimento in essa dei vari stati europei, Italia compresa, nonché la complessa gerarchia di uomini e sottouomini istituita dal regime nazista e dai suoi alleati nel tentativo di costruire un'Europa e un mondo gerarchizzato per razze. La giornata è stata sì volano di approfondimenti storiografici e di una crescita del sapere diffuso, ma è stata anche l'occasione per una semplificazione divulgativa di ciò che accadde, trasformando spesso in cerimonia di presa di posizione etica quella che poteva essere un'occasione per un approfondimento storiografico e allo stesso tempo per un allargamento dello sguardo in senso diacronico, rivolto sia al passato che al presente. Anche nella scuola, la celebrazione del 27 gennaio ha assunto sovente i caratteri di un'adesione di tipo etico, a volte puramente formale, capace di risolversi in un'iniziativa della durata di poche ore. La scuola è il luogo più importante della costruzione di esperienze e apprendimento da parte di ragazzi e ragazze, ma fatica spesso a rapportarsi con il presente e le domande che questo genera. Alle volte vi è il timore da parte del corpo docenti di scoprire il proprio privato e di esporsi troppo. In alcuni casi una paura in buona fede, una paura di influenzare o condizionare gli studenti con il proprio pensiero. Negli ultimi 2 anni però si è arrivati anche ad un preoccupante fenomeno di autocensura, con una diffusa paura di finire sotto accusa per ciò che si dice in classe. Ne sono complici le frequenti polemiche della destra sulla propaganda della cosiddetta ideologia gender a scuola e il questionario di Azione Studentesca sui casi di indottrinamento da parte di prof di sinistra. Infine gli atti ministeriali, come l'assurda questione sul cosiddetto contraddittorio a scuola, sollevata dalla nota numero 5836 del 7 novembre 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questa nota chiede alle comunità scolastiche di garantire, in iniziative con ospiti esterni, la presenza di posizioni diverse, semplificato nel concetto di avere sempre un contraddittorio, in nome del pluralismo e della libertà di opinione. Nell'esperienza pratica, questa necessità è stata posta su tematiche legate all'educazione di genere e sulla Palestina. Da questa nota ministeriale è nato un diffuso panico nelle dirigenze scolastiche che hanno sviluppato un inedito controllo sulle attività didattiche. Valga su tutti l'esempio dell'Istituto di Istruzione Superiore Aldrovandi Rubiani di Bologna, in cui è stato annullato il giorno stesso un incontro con 2 giovani obiettori di coscienza israeliani della rete pacifista Mesariot. La dirigenza ha motivato la sua scelta in nome di una prudenza volta a tutelare il pluralismo. Nonostante queste forme di censura, il genocidio nelle classi è arrivato e sarebbe stato impossibile evitarlo. La realtà bussa sempre forte alle nostre porte. Determinante è stata sicuramente l'attività di alcune reti di docenti per la pace, come Docenti per Gaza. La loro attività, importante e significativa, ha agito a più livelli. Hanno posto la questione palestina, hanno proposto delle richieste di cessate il fuoco e di presa parola per la pace nei collegi docenti. Hanno inoltre proposto attività didattiche specifiche. Hanno inoltre ripreso una vecchia questione, cioè quella di fare un osservatorio sui libri di testo per come parlano della Palestina, visto che spesso adottano un punto di vista sionista, citando ad esempio Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele al posto di Tel Aviv. Al di là di prese di posizione evidenti, tante e tanti di noi hanno parlato con le classi di Palestina e della guerra contro i civili che si sta conducendo a Gaza. Ogni componente di Vallun, come ormai sapete, conserva tanti mondi dietro il microfono. Uno dei miei è quello del prof, il prof delle scuole superiori. Nella mia attività, però, penso di aver fatto poco a proposito della Palestina, al massimo di aver sperimentato delle strade che in parte mi hanno un po' deluso e in parte mi hanno anche soddisfatto. Lavorando alle scuole superiori, come dicevo, mi sarebbe piaciuto che fossero studenti e studentesse a chiedermi di parlare di un argomento così contemporaneo e a proporre loro un momento di interruzione della solita attività didattica. Un atteggiamento questo che mi piacerebbe che avessero in generale, non soltanto per una questione che a me sta molto a cuore come la Palestina. L'unica occasione in cui ho avuto proprio un momento di dialogo e di confronto esplicito sul presente è stato con il primo grande sciopero per la Palestina del 22 settembre del 2025, quando la mia classe quarta mi chiese se avessi scioperato e il mio sì avviò una bella discussione sul senso delle proteste, su cosa stesse succedendo, dandomi la possibilità di scoprire in parte cose che in parte già sapevo, da parte loro tanta confusione, tanti dubbi e una difficoltà di fondo a separarsi da quanto sentivano dire a casa. Dall'altro lato, non amando mai le giornate ad hoc, diciamo, su un argomento che interrompono il fluire didattico e poi rimangono un po' isolate, ho cercato di parlare di genocidio, di guerra attraverso degli altri argomenti. Ad esempio, un alfabeto del lessico della Palestina del conflitto arabo-israeliano quando ho affrontato la civiltà ebraica nella parte di storia antica di prima, cosa che peraltro molti libri di testo suggeriscono di fare. Oppure la testimonianza della scrittrice palestinese Nur El-Essai in fuga da Gaza che ho deciso di inserire all'interno di un percorso sull'autobiografia e il racconto di sé. Alla fine, la questione palestinese, ma anche il rapporto tra memoria e politica, la storia del Medio Oriente, l'antisemitismo e l'antislamismo sono questioni che possono essere toccate in tanti momenti già nella didattica da programma, si sarebbe da detto una volta, cioè quello che d'abitudine si fa a scuola. Però, in fondo, parlando della mia esperienza, credo che, come me, tanti docenti spesso siano in difficoltà nel raccontare il presente e nel farlo entrare nella nostra quotidianità scolastica, data anche una cronica lontananza di tante e tanti di noi che insegnano storia, anche solo rispetto alla seconda metà del Novecento, un argomento che si fa fatica ad affrontare perché raramente ci si arriva. Partendo proprio da questo problema che io sento e che tanti colleghi credo che sentano, abbiamo deciso di rigirare questa domanda a Monica Rock, una docente di italiano e storia che è distaccata presso l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, di cui è una delle responsabili dell'attività didattica. A Monica abbiamo chiesto, in virtù della sua esperienza, un'opinione su quanto la nostra scuola sia in grado di parlare al presente e di occuparsi dell'esigenza dei nostri studenti e delle nostre studentesse di trovare delle risposte a domande che vengono dal presente, e nella sua riflessione che andremo ad ascoltare troviamo forse anche delle risposte alle nostre di domande che hanno animato il progetto di questo podcast. Di fronte alla contemporaneità, a ciò che sta succedendo intorno a noi, vedo che ragazze e ragazzi hanno reazioni diverse e anche assolutamente comprensibili. Possono reagire chiudendosi nella sfera privilegiata dell'individualismo egocentrico, oppure possono aprirsi al mondo e porsi e porci domande. Spesso domande complesse che certo necessitano di risposte articolate e non semplici. Ma comunque sia, sempre ben vengano le domande, le sollecitazioni da parte delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Di fronte a queste è possibile sentirsi inadeguati e talvolta anche intimoriti, però dobbiamo considerare che non rispondere, non intervenire, non vuol dire mai essere neutrali, ma anzi vuol dire creare una delusione e soprattutto creare un vuoto che li spingerebbe a cercare risposte semplici in modo autonomo. E questo potrebbe avvenire per lo più attraverso l'incontro con narrazioni che utilizzano scorciatoie, semplificazioni, riduzioni e anche rivisitazioni. Narrazioni, insomma, che si basano più su opinioni che non su analisi scientifiche. Spesso si tratta proprio di narrazioni che spingono a scivolare in un clima polarizzato e polarizzante, che è in realtà quel clima che sta prendendo sempre più campo in tanta discussione pubblica oggi. Dunque, sicuramente le domande a scuola vanno accolte, anche se scomode, anche se riguardano, come ricordavate, le guerre odierne. E se è necessario dare spazio in un primo momento, dare voce allo sgomento, all'orrore, alla paura, subito dopo è necessario passare all'analisi critica dei fatti, degli eventi, per rispondere a ragazze e ragazzi, se non in maniera completa ed esaustiva, almeno nel modo più serio possibile. E questo è possibile farlo se noi educhiamo alla complessità, aiutandoli a evitare il rifugio in zone di comfort fatte appunto di semplificazioni e banalizzazioni. Dunque, vedere, guardare, osservare i fatti storici di oggi e di ieri non come eventi, ma come processi, come il frutto di percorsi costruiti, più o meno volontariamente, costruiti nel tempo, e dunque come conseguenza di scelte fatte. Scelte sicuramente politico-istituzionali, certo, ma anche culturali, sociali, e anche scelte fatte da semplici persone come noi. Si tratta cioè di analizzare come si arriva a certi eventi drammatici di oggi e di ieri, quali passaggi li hanno resi possibili, chi ha deciso, come è stato reso normale ciò che ci pare inaccettabile, o come è stato reso legale ciò che giusto non è, chi lo ha eseguito, come lo ha fatto. Sempre domandarsi chi, quando, perché, a chi, per cosa, e diventare con questo anche consapevoli che anche noi siamo la storia, che noi siamo nella storia e che ogni nostra posizione è una scelta e che ha comunque delle conseguenze. Così, insieme ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, si tratta di sotterrare quell'arido vero che sta alla base di molti processi storici, e cioè il meccanismo di costruzione del nemico, l'ingiustizia normalizzata a piccoli passi, l'indifferenza vista come salvaguardia personale e come sicurezza. Non posso non fare un'ultima considerazione. La storia del Novecento, di tutto il Novecento, non può ancora essere relegata ad una trattazione veloce e sommaria negli ultimi mesi dell'ultimo anno della scuola superiore, ma deve poter avere ben più ampio spazio, sia come trattazione organica nel corso dell'ultimo anno fondamentale del percorso del cammino scolastico, sia come costante riferimento e richiamo nel corso dell'intero ciclo scolastico. Ed è proprio per questo che nel nostro istituto a Firenze è nato qualche anno fa Insegnare Novecento, un gruppo di lavoro spontaneo composto da docenti di vari indirizzi di scuola secondaria superiore, proprio per confrontarsi, per condividere insieme, per arrivare poi anche a stilare delle schede operative che ci aiutino a orientarci nella scelta di temi, di argomenti e anche di metodi per affrontare davvero interamente la storia del XX secolo nei suoi nuclei e passaggi fondamentali per capire e per orientarsi nel mondo di oggi. Dunque, per tornare alla domanda iniziale, si può e si deve parlare anche di Gaza, delle tragedie, dei crimini di oggi che chiamano in causa la nostra responsabilità di cittadini di un mondo globale, come ci ha ricordato recentemente la senatrice Liliana Segre, perché studiare storia e farsi continuamente domande, leggere criticamente il passato e il presente è anche un grande e nobile esercizio di consapevolezza e di cittadinanza, è un dare voce a quella che Calamandrei chiama la sete di verità e di presenza, il ritorno alla ragione, all'intelligenza e al senso di responsabilità. Fare storia ai tempi del genocidio a Gaza è un podcast di Van Loon, il programma di storia di Radio Città Fujiko. Si ascolta sul nostro sito radiovanloon.info, sul sito della radio e sulle piattaforme podcast.